Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Undici minuti, ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria potremmo aprire col fatto che lo Zimbabwe passi al dollaro americano. In realtà non è questa la notizia di me più forte, sto scherzando, perché purtroppo la giornata ha preso un'accelerazione non bella e quindi negativa sul fronte greco. Tutte le borse sono scivolate, adesso stanno un po' recuperando, ma insomma Parigi perde ancora il 2%, come fa Francoforte, Milano perde l'1,70%, tensioni sul debito e quindi sulle obbligazioni e sui titoli che hanno molti titoli di Stato, scusatemi gioco di parole, in pancia, quindi bancari. Perché per quello che riguarda la Grecia, se è possibile, siamo al caos. Ora, caos è anche un nome... era anche un dio greco, ma insomma il caos vero, perché al di là dell'abbandono del Fondo Monetario Internazionale fatto 3 giorni fa dal tavolo delle trattative, la Grecia ha ricevuto un ultimatum di 24 ore per fornire proposte al Euro Working Group, che è quello che ha preso il posto sostanzialmente della Troica famosa. Il governo greco è stato avvertito dai suoi partner di smettere di reagire alle richieste dei creditori e presentare un piano di accordo alla fine di evitare il rischio di un fallimento. Poco fa, tra l'altro, la Banca Centrale della Repubblica di Macedonia, voi direte che cavolo c'entra la Repubblica di Macedonia? No, c'entra, perché ha deciso che le filiali locali delle banche greche, le banche greche sono molto presenti in Macedonia, anche per motivi storici oltre che geografici, hanno il 20% di tutti gli asset bancari locali. Ebbene, non potranno da questo momento ritirare contante. La misura serve per proteggere il paese dall'eventuale scenario peggiore, quindi le filiali di banche greche non potranno ritirare contante. Tsipras ha convocato una riunione urgente con alcuni ministri per discutere gli ultimi sviluppi dei negoziati. Finché il popolo ci appoggia, lotteremo. Ho capito, Tsipras, però devi anche cedere su qualcosa. Gli accordi si fanno perché ci si incontra su un punto comune di caduta. Comunque, Grecia, il governo, appunto, non accettiamo tagli agli stipendi e alle pensioni. E questo è un punto fermo sulle pensioni che il governo Tsipras ha sempre mantenuto. I deputati di Siriza però si starebbero preparando al compromesso, un'ipotesi di compromesso. Il ministro delle finanze Varoufakis dice: a differenza delle tante voci, noi non abbiamo mai giocato d'azzardo. Secondo la stampa tedesca, la Bild, anche il governo di Angela Merkel si starebbe preparando a una Grexit, a un'uscita della Grecia dall'euro. Berlino poi però fa sapere che non è vero, che stiamo lavorando perché la Grecia resti nell'eurozona, ha risposto così il portavoce del governo tedesco Stefan Seibert proprio alle indiscrezioni o alle ipotesi avanzate dal Bild. Ancora, senza il Fondo Monetario Internazionale non immagino una soluzione, non è immaginabile una soluzione, dice il portavoce, il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble. La volontà deve arrivare da entrambe le parti, continua Angela Merkel. Insomma, siamo al balletto, la partita da ping pong, ma su questo, insomma, la situazione ha subito un'accelerazione negativa. Devo dire che dopo la fiammata a metà seduta stanno un po' ritracciando le borse. Adesso Milano, per esempio, ha recuperato -1,1, la stessa Parigi, mentre parlavo, e Francoforte hanno recuperato mezzo punto percentuale, -1,50, -1,40. L'euro è a 1,1280, lo spread italiano si era mosso a rialzo a 140 punti, adesso controlleremo gli ultimi dati. Di questo parleremo, ma non dimentichiamoci che il venerdì, ahimè, c'è anche la poco invidiabile classifica di Focus Economia e quindi la nostra top 5 degli sprechi o cattive abitudini o cattivo utilizzo del denaro pubblico. E oggi abbiamo rischiato anche oggi un ex aequo, però poi forse abbiamo deciso che il primo è il secondo. E come sempre anche invece le imprese che si rimboccano le maniche, o meglio gli imprenditori, gli italiani, i cittadini che si rimboccano le maniche e accettano la sfida e lanciano un'impresa proprio durante questi anni di crisi. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente, vedo molti messaggi, un po' di pazienza ancora sulla Grecia, rapidamente dicevo le altre notizie, in breve. Molto altro al di là delle tensioni sui titoli, ricordavo anche i titoli italiani, adesso il Monte dei Paschi perde il 3,34%, UBI Banca il 2,60%, UBI è arrivata a perdere il 3%, Unicredit che era arrivata a perdere il 2,60% ha ridotto il calo all'1,88%, Unipolsai meno 1,80%, Banco Popolare pure meno 1,80%, va bene Finmeccanica più 1,80%, TOZ più 1,33%. Tra i titoli segnaliamo anche Atlantia, Autostrade per l'Italia meno 2,80%, CNH meno 2,5%, Moncler meno 2,20%, e poi Eni meno 1,70%, Exor meno 1,60%, Enel meno 1,6%, Pop Emilia Romagna meno 1,40%. Oggi, tra l'altro, a mercati chiusi, l'agenzia di rating Moody's dovrebbe annunciare la revisione o la conferma del voto all'Italia. Attualmente ha un giudizio Baa2 con prospettive stabili. Nel frattempo, la Commissione europea ha dato il via libera allo schema cosiddetto di split payment proposto dall'Italia. Questo passa adesso al Consiglio europeo per la decisione finale. Sempre sull'Italia, Terna comunica che a maggio la domanda di energia elettrica è risultata sostanzialmente in linea con maggio 2014, a parità di temperatura e calendario. Ha avuto un giorno lavorativo in meno, una temperatura leggermente superiore. La variazione destagionalizzata a livello mese su mese è a meno 1,1%. Perché citiamo la domanda di energia? Perché se ci fosse una ripresa vera e consistente dovremmo vedere una ripresa vera e consistente anche della domanda di energia elettrica, e così non è. Il giudizio sui decreti del Jobs Act, di cui ieri abbiamo dato molte anticipazioni, poi il Consiglio dei Ministri è iniziato praticamente quando noi stavamo chiudendo la puntata. Giudizio positivo da parte del Presidente Confindustria Squinzi, complessivamente i decreti sono positivi, giudizio negativo invece da parte del Segretario Generale della CGIL Susanna Camusso. Dopo i decreti attuativi, ha detto la Camusso, sul Jobs Act confermiamo ciò che avevamo dato per acquisito nella legge delega, cioè il progetto non è un investimento in termini di qualità di lavoro ma una sua riduzione. E proprio ai decreti attuativi sono dedicati 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi curati dal vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Sul Jobs Act, che poi sarebbe meglio chiamare riforma del mercato del lavoro, il governo sta sicuramente procedendo con determinazione. Quattro decreti attuativi sono in vigore o sono prossimi ad esserlo, a partire da quello sul contratto a tutele crescenti e inclusi i due sul riordino della contrattazione e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro approvati ieri. Sono entrambi importanti. Il primo, tra le altre cose, razionalizza l'uso delle collaborazioni e dei contratti a termine, il secondo amplia le possibilità di utilizzare strumenti come i congedi parentali. A questi decreti se ne aggiungono altri quattro per i quali ieri è stato avviato l'iter che porterà al varo definitivo. Sono i testi sulle politiche attive, cioè il sistema che ha la finalità di supportare chi è in cerca di lavoro, quello sulla nuova cassa integrazione che sarà limitata a 24 mesi ma verrà estesa estesa anche alle piccole imprese, e poi le semplificazioni e la razionalizzazione del sistema delle ispezioni. Spesso diciamo che le regole, le leggi da sole non bastano a creare occupazioni. Vero, naturalmente, servono anche investimenti, servono politiche per la crescita, serve fiducia. Tuttavia è possibile che leggi più moderne, che regole più attuali siano più adatte a fornire risposte concrete al problema della mancanza di lavoro, che resta per i giovani, ma non solo per i giovani, la principale emergenza di questa lunga fase economica negativa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. La classifica della settimana. La poco invidiabile classifica. Dunque, come sempre, rendiamo onore e ringraziamo tutti i colleghi dei quotidiani, lo facciamo sempre. E per inciso, la notizia della settimana scorsa sull'ospedale Regina Elena con lo spreco da 1,6 miliardi era della Repubblica, edizione romana, così il collega che l'ha scritta gli rendiamo omaggio e onore. È chiaro, lo ripeto ogni volta perché ci chiedono molte persone, ma dove le troviamo queste notizie? Le raccogliamo sulla stampa locale, nazionale, sulle cronache locali della stampa nazionale, dalle agenzie di stampa, dovunque, dove riusciamo a trovarle. Allora, partiamo dal quinto posto che ci porta, voi direte, poca roba, insomma c'è una situazione strana nel modo in cui... Io vorrei fare una domanda, ma cosa ne penserebbe qualunque italiano se per gestire un immobile che rende 90.000 euro l'anno, lo stipendio del dirigente unico che lo gestisce fosse di 220.000 euro l'anno? È un principio strano, cioè intaschi 90.000 euro per gestire un immobile, un reddito da 90.000 euro, ma lui, che si chiama chiaramente Vincenzo Pastore, presidente del Comitato Regionale Campania, Lega Nazionale Dilettanti, è il presidente della Lega Dilettanti, ma i dilettanti in questo caso sono quelli calcistici, non dilettanti, sono anche quelli che hanno affidato una retribuzione di 220.000 euro per un immobile da 90.000. Che cosa succede? Per la precisione 222.000 euro. La notizia anche in questo caso non è che l'abbiamo scovata facendo ricerche con gole profonde, semplicemente è indagato per truffa aggravata dalla procura di Napoli il signor Vincenzo Pastore. Allora, il nucleo di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza ha perquisito i suoi uffici, sequestrando documenti definiti interessanti. Pastore è stato per circa 30 anni dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio, e già lì uno potrebbe dire: come cavolo fai a stare 30 anni? Perché poi parliamo sempre dei casi del calcio internazionale, e ci mancherebbe, però pure 30 anni dirigente, ma uno, vabbè, comunque non è illegale. 30 anni dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti, con uno stipendio di 158.000 euro l'anno, che non mi sembra proprio un brutto stipendio. Che cosa è successo? Di recente è stato nominato presidente del Comitato Regionale Campania, Lega Nazionale Dilettanti. Ora, siccome non poteva mantenere uno stipendio, questa è l'ipotesi dell'accusa, così elevato, la carica di presidente della Lega Nazionale Dilettanti Campania non te lo garantisce, è stata creata una struttura ad hoc, una SRL, per gestire il patrimonio immobiliare della Lega Nazionale di Campania, la Calcio Campania Immobiliare. Dice, vabbè, quanti immobili gestirà la Calcio Campania Immobiliare? Un solo immobile nella zona ferrovia. Il palazzo produce un reddito di 90.000 euro, però in cambio lui, che è l'unico dipendente, l'unico dirigente, questo è di nuovo uno di quei casi in cui sei dirigente, dipendente di te stesso, ti autolicenzi, ti mandi le lettere di richiamo, le contesti, prende uno stipendio di 222.000 euro l'anno. Lo scopo è acquisto, gestione, vendita, permuta, locazione degli immobili esistenti a sede della Lega Nazionale Campania o dei suoi organi. Ho capito, un palazzo, 90.000 euro di reddito, 222.000 euro di stipendio, bene così. Al quarto posto, il vizietto dei gettoni di presenza. Ma basta. Allora, adesso torniamo a Bari. L'importante è partecipare. L'importante è partecipare e non vincere. Qua l'importante è partecipare e non lavorare. Oppure l'importante è partecipare e non votare. Perché lo dico? Perché il gettone di presenza scatta comunque, no? Se uno partecipa, che poi tu resti, il gettone di presenza vale 73 euro lordi ogni volta che un consigliere a Bari entra fisicamente nell'assemblea consiliare. Il problema è che uno di solito entra all'assemblea consiliare anche per votare, discute, vota, non è che uno entri così per non sa dove andare. E invece no, perché c'è il vizietto dell'assenza, cioè dell'uscire dall'assemblea nel momento clou, così cade il numero legale, si scioglie la seduta e guarda caso toccherà farne un'altra perché bisognerà votare le delibere. Per esempio, giovedì della scorsa settimana i 36 eletti a Palazzo di Città, sede del Comune di Bari, si sono convocati per discutere della riforma della scuola e chiedere il ritiro del disegno di legge. Vabbè, a parte il fatto che non sarà pure di pertinenza del Comune di Bari, ma occupatevi anche di Bari. Chi se ne frega. Comunque, andiamo avanti. In aula si sono presentati in 21, proprio al pelo per il numero legale, che era di 19. Al momento del voto, però, erano scomparsi in 3. Quindi il numero era sceso a 18, tutti a casa, nessuna delibera, però intanto i 73 euro a testa li hanno beccati. Un copione uguale a quello del 26 maggio, sto citando solo l'ultimo mese, quando c'era da votare il rendiconto, che voglio dire è la piccola legge finanziaria, la gestione economica del comune, il rendiconto 2014, 20 i presenti, sempre 19 il numero, attenzione ai numeri, 20 presenti, 19 il numero legale. L'inizio della seduta vede 20 persone, al termine della seduta sempre 3, ma c'è questa incontinenza, questo problema alla prostata, non capisco, 17, per cui vanno sotto, non c'è più il numero legale, tant'è che pure il sindaco si è girato, si è infuriato, Antonio De Caro, gli diamo merito, e quindi non si può votare, ma intanto il gettone l'hai preso. Un terzo dei consiglieri del comune ha collezionato meno votazioni dello stesso sindaco, ci sono 12 consiglieri che hanno votato meno di lui, tra l'altro i più noncuranti siedono nei banchi del centro-sinistra. Chi ha pigiato sul pulsante del voto solo un terzo delle volte rispetto al sindaco sono Giuseppe Di Giorgio, Realtà Italia, 34 delibere votate in un anno, Pietro Albenzio, Bari Capitale, e Livio Sisto, su dal centro, entrambi a quota 38. Poi ci sono Filippo Melchiorre con 45, Fratelli d'Italia con 45 votazioni, Domenico Di Paola, Impegno Civile, 49 voti, Romeo Ranieri, Nuovo Centrodestra, con 68 voti. Al terzo posto della classifica, saliamo di livello, anche se vi voglio dire che il primo, che stavamo per dare quasi ex aequo col secondo, non è dovuto al danno erariale, ma è dovuto alla faccia di Tolla, mettiamola così. Comunque, perché premiamo anche la faccia di Tolla, non solo il danno erariale, sennò dovremmo partire, faremo una classifica in automatico, no? Allora, terzo posto, la maxi indennità che è arrivata alla regione Campania. Questa è una vicenda bellissima, perché praticamente nel 2002, con la legge regionale 20, si stabilisce nella regione Campania che debba esistere un'indennità extra per i dipendenti del consiglio regionale, pensate un po', legata allo svolgimento di attività di assistenza agli organi istituzionali. Detta così, che vuol dire? Se tu sei un dipendente e farai attività di assistenza agli organi istituzionali, vabbè. Un trattamento accessorio al salario che non rientra nel contratto collettivo nazionale, scrive il commissario per la spending review nel 2014, e si chiama Vincenzo Ambrosio. E quindi il 30 gennaio, dopo che questa indennità andava avanti bellamente da 12 anni, viene sospesa. Il Consiglio regionale sospende l'indennità, anche perché l'indennità della legge 20, quella che ho appena citato, se uno somma quell'indennità e la posizione organizzativa, un dipendente del Consiglio regionale può arrivare a incassare 3.000 euro netti, raggiungendo quasi 3.500 euro netti di un dirigente, proprio non è poca cosa. Comunque, stiamo ai fatti. Finalmente il commissario per la revisione della spesa, Vincenzo Ambrosio, scrive che questa roba qua non ha senso, non rientra nel contratto nazionale collettivo del lavoro e quindi il 30 gennaio il Consiglio regionale sospende l'indennità ai dipendenti. Tutto ok, direte voi. Eh no, non dimentichiamoci che iniziano a essere alle porte le elezioni regionali e quindi il 14 maggio si dà l'ok a un reintegro di questa attività con la scusa che siccome l'ARAN, che è l'agenzia che doveva dare il parere ultimo, non ha fornito il parere, non è che abbia detto sì, non ha detto nulla e quindi non sono pervenute osservazioni e quindi vuol dire che il provvedimento può essere reintegrato e quindi il 21 maggio, dal 21 maggio al 1 giugno vengono distribuiti circa 90 incarichi di posizione organizzativa riconoscendo l'aumento di retribuzione. Nello stesso tempo scattano il 14 maggio 606.000 euro da corrispondere per 6 mesi a 185 dipendenti interni da impegnare su 8 progetti selezionati dai dirigenti. E uno può arrivare, noi vogliamo fare come le vergini. Va bene, evidentemente ci sono dei progetti importantissimi, dei progetti insomma che vanno seguiti, devi dare una mano ai dirigenti. I progetti. Uno si chiama formazione e aggiornamento per i consiglieri. Un po' più vago, no? Formazione e aggiornamento per i consiglieri. L'altro si chiama CD-ROM, non sto scherzando, CD-ROM del consigliere, ma che è? CD-ROM del consigliere, io pensavo di aver letto male, no, cioè dovrai fare qualcosa al CD-ROM del consigliere, a parte il fatto che avrei preferito leggere chiavetta del consigliere, chiavetta USB, CD-ROM, ragazzi, siete pure vecchi, ma CD-ROM del consigliere, comunque viene reintrodotto e quindi vengono reintrodotti sia gli incarichi di posizione organizzativa che il bonus, l'integrazione da corrispondere a tutti i dipendenti, nonostante al 30 dicembre del 2014 il commissario di governo l'avesse definito illegittimo, l'atto dirigenziale è del 14 maggio. È un caso, ma dal 31 maggio al 1 giugno si votava comunque in campagna, tant'è che alcuni dirigenti a fronte di tanti impegni di spesa chiedono chiarimenti alla direzione generale che è retta da Magda Fabrocini, no? Dalla lettura degli atti, scrivono, pare che una stessa attività venga retribuita 3 volte al singolo dipendente. Vabbè, è una coincidenza, i cordoni della borsa vengono aperti quando i vari consiglieri regionali erano impegnati in campagna elettorale, tutte coincidenze. E adesso meteo, pubblicità e poi il secondo e il primo posto. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24, da Nikos Schiodetto di trebimeteo.com. Una perturbazione atlantica si sta avvicinando alla nostra penisola. Nelle prossime ore apporterà già qualche acquazzone o temporale sulle regioni di nord-ovest. Tempo molto variabile anche sulla Sardegna. Per il resto d'Italia tempo invece ancora tutto sommato discreto, salvo qualche nube alta di passaggio. Poi nel corso del weekend avremo tempo buono al centro-sud con clima tipicamente estivo, mentre sulle regioni settentrionali molta variabilità. Domani molte nubi sono attese difatti tra Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta, con acquazzoni sparsi. Domenica invece tutto il nord e parte della Toscana dovrà fare i conti con l'instabilità ed occasione quindi per temporali localmente anche di forte intensità. Con questo per il meteo è tutto, aggiornamenti in tempo reale sul sito trebimeteo.com. Focus Economia. La classifica della settimana. Allora, con buona pace di chi dice ma insomma lei basta, vada in chiesa col suo rosario. No, mi dispiace, io continuo a farlo il rosario, come lo chiama lei, o a chi di solito per depistare dice beh guardate anche nelle tasche dei privati. Guardi che nelle tasche dei privati guardiamo, ma il problema è che qui sono soldi nostri. Il privato, se spende male i soldi, ne risponderà di fronte agli azionisti, di fronte al ai suoi soci, non è che possiamo andare a contestare, mentre sul denaro pubblico sì, perché sono anche soldi nostri. Comunque, secondo e primo posto. Allora, al secondo posto, stava per vincere il numero uno, però poi adesso capirete perché no. Al secondo posto io devo dire che qua siamo di fronte a un quasi genio. Se abbiamo una cosa che, diciamo, faccia capire una di quelle basi molto anche intense sul dolore di un uomo, perché qui siamo di fronte a un dispiacere di un uomo e a una difficoltà vera di un uomo, il quale abbiamo una cosa, cosa avevamo? Usavamo Chopin, adesso vi arrivo, perché? Perché qui siamo di fronte a un caso che non ha un grosso danno erariale, anzi ce l'ha, oddio, un po' ce l'ha, ma è la fantasia. Praticamente c'è un dipendente del comune di Messina, è un funzionario tecnico, ecco, grazie, dei servizi sociali, che tra l'altro le strutture socioassistenziali a Messina funzionano male e le verifiche vengono svolte con notevole ritardo, per cui è un ruolo importante, visto che poi sono le strutture che fanno assistenza sociale a chi ne ha bisogno. Comunque, lui si chiama, è il geometra Antonio Guido Panella, e ha tutta la nostra comprensione, perché soffre di un disturbo che, diciamo, raro. Si deve chiamare, immagino, mal di mare. Perché? Perché lui ha presentato un certificato. Lui abita a Reggio Calabria, deve andare a lavorare a Messina, ma ha presentato un certificato per cui è riuscito a ottenere di essere distaccato al comune di Seminara, che è in provincia di Reggio Calabria, e non di non andare a lavorare a Messina. Perché? Perché ha problemi di salute che gli impediscono l'attraversamento dello stretto per recarsi quotidianamente da Reggio Calabria a Messina. Non potrà muoversi? No, perché lui ha ottenuto un distacco in un comune, quello di Seminara, Reggio Calabria, dove deve fare un tragitto molto più lungo che per arrivare da Reggio Calabria a Messina. Evidentemente è il mare, forse Scilla, Cariddi, non lo so, c'è qualcosa che lo preoccupa in maniera totale. Tra l'altro ha scelto di essere distaccato a Seminara, in un comune oltre che ben più distante come tragitto rispetto a Reggio Calabria e Messina, dove stranamente aveva già lavorato dall'aprile 2008 a novembre 2009 e dall'ottobre 2012 al 2013. Quindi viene distaccato dal comune di Seminara, è dipendente a tempo indeterminato del comune di Messina. Voi capite che finché non si riesce a riformare la pubblica amministrazione, se un comune non può neanche dire a un suo dipendente assunto a tempo indeterminato vieni a lavorare dov'è il comune, e lui dice no, non ce la faccio attraversare lo stretto di Messina, ho paura, mi fa impressione il mare, ci sono le sirene, gli squali, Scilla, Cariddi, l'invasione delle cavallette, me la date Belusci per favore su questo, allora. E il comune accetta che a questo punto il funzionario non lavori per i servizi e le strutture socio-assistenziali, resti distaccato, anzi vada distaccato a Seminara, e nonostante l'organico, ripeto, della struttura in cui opera, per cui fregandosi altamente del fatto che l'organico sia sottodimensionato e lavori in ritardo, giustamente scrive un ascoltatore, bisognava fare il ponte sullo stretto, cavolo, risparmiamo almeno su questo. E insomma, l'amministrazione del sindaco Accorinti ha dato il suo assenso al trasferimento di Panella, prima per 6 mesi, delibera del 20 maggio 2014, poi per altri 12 mesi con un provvedimento del 28 aprile 2015. Tra l'altro, pensate, la Panella, quando dovesse tornare a Messina, lo farà con una qualifica superiore conquistata a Seminara, dove ha ottenuto di essere nominato capo del settore tecnico nel frattempo, e quindi la retribuzione, ammesso e non concesso che riesca a superare l'angoscia che gli viene nell'attraversare lo stretto di Messina, dovrà essere adeguata all'incarico. Ecco perché la regioneria del comune dice aspettate un attimo, non abbiamo ancora dato un parere di regolarità, perché qui abbiamo uno che non può attraversare lo stretto, deve andare, chiede di andare a Seminara, che è più distante come destinazione, ci va, e ciò nonostante viene pure promosso, e quando torna gli dobbiamo dare anche uno stipendio più alto. Voi capite che c'è una improvvisa e perché improvvisa, tra l'altro lui non è la prima volta che va in vita sua a Messina, però gli è venuta fuori, non lo so, un'allergia, non ho visto il certificato, un'improvvisa incompatibilità con quel viaggio oceanico che è rappresentato dall'attraversamento dello stretto del Reggio Calabria e Messina, e noi viene in mente appunto il mitico John Belushi quando doveva giustificare la fuga dal matrimonio in un passaggio formidabile di Blues Brothers. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio! Are you with me? Are you with me? Però questa era la numero 2, perché il numero 1 se lo becca anche, no, la volta scorsa non lo beccò, se lo becca per questa settimana la nostra top 5 l'ex governatore della regione Veneto Giancarlo Galan, che voglio dire quanto diciamo a capacità di rivoltare la frittata è vicino al dipendente, come cavolo si chiama questo qua di Messina, adesso lo becco di nuovo, al dipendente di Messina. Perché lo dico? Perché ricordate che la settimana scorsa abbiamo fatto notare, si chiama Guido Panella, abbiamo fatto notare che Galan, condannato perché ha patteggiato, cioè ha ammesso la colpa, 2 anni e 10 mesi, confiscati 2.600.000 euro, subito dopo però ha fatto ricorso in Cassazione dicendo che il patteggiamento gli era stato estorto a Galan. O il patteggiamento lo fai perché riconosci la colpa, oppure vai in giudizio normale e intanto stavi in carcere, perché lui era in infermeria, per uscire dall'infermeria del carcere ha patteggiato, poi come ha patteggiato ha detto che si era sbagliato a patteggiare. Va bene, comunque tutto questo per lo scandalo del Mose, uno scandaluccio che ha decapitato Venezia, ha decapitato il sindaco, ha messo in mezzo tutti, i magistrati alle acque, tutti, Mazzacurati che abita ancora, si è trasferito a San Diego, dov'è che stava, in California, e a noi umili cittadini è costato la differenza tra i 2 miliardi preventivati per queste paratie, ammesso che servano, diventati 6 miliardi e 200 milioni, con 4 miliardi magari a Venezia qualcosa in più si faceva, magari si pulivano e si dragavano i canali, non lo so, anche non solo a Venezia, anche nel giro del paese, 4 miliardi. Allora, Galan che cosa ha detto? Ha detto, io non mi dimetto, abbiamo scoperto che era ancora presidente della Commissione Cultura della Camera, tutto legale, perché la legge Severino prevede che venga sospeso o decada, in caso di condanna di primo grado, chi lavora in un'amministrazione locale, è il caso di De Luca, la vicenda di De Luca, no? In attesa dell'appello, del ricorso in Cassazione. Mentre se tu sei un deputato o un senatore, devi attendere non solo che la sentenza sia definitiva, ma anche che la Camera di appartenenza abbia votato la decadenza, con un allungamento dei tempi che è facilmente, no? Intuibile. E in questa fattispecie ricade Galan, che ha detto no, la legge me lo consente, io resto presidente della Commissione Cultura. Noi ci siamo permessi di obiettare, ma perché devi stare a occupare la presidenza della Commissione Cultura della Camera se hai patteggiato, se sei finito uno scandalo? Ma lascia stare, no. Allora, il primo posto se lo becca Galan per la risposta che ha dato. Senti bene, io a questo Parlamento, anzi vorrei un tono un po' più, a questo Parlamento non devo nulla, hai sbottato l'ex governatore ed ex ministro della cultura Galan, che si è indignato e ha detto con un presidente ai domiciliari mi dovreste ringraziare, e qui l'erario ha risparmiato, visto che nelle condizioni in cui mi trovo non percepisco né la diaria per le sedute a Roma, né l'indennità supplementare connessa alla carica. Quindi io ho fatto un favore, con me lo Stato sta risparmiando. E come no, e come no. Se poi lei e tutto il gruppo di Mazzacurati, di tutti quelli coinvolti, ci ridate anche i 4 miliardi mancanti rispetto al progetto, le diamo ragione. Bravo Galan, primo posto della nostra classifica. Traffico. Focus Economia. Sì, ha ragione un medico fisiatra che ha scritto al 349-238-6666. Altri stanno scrivendo invece sul sito di Radio 24, nella sul sito di Focus Economia, nella pagina appunto del programma. Ha scritto un medico fisiatra, dice: stamani un insegnante, durante la visita ambulatoriale con me eseguita per un banale dolore alla spalla, mi ha chiesto: dottore, mi fa un certificato che attesti che sono impossibilitata a scrivere perché mi è pesante? Scrive così, mi creda tanto. No, ma qui il problema dei medici, cioè, lo voglio dire molto chiaramente, con massimo rispetto, anche l'ordine dei medici, se vogliamo dare un senso a sti ordini, voi sapete che ne pensa sottoscritto, pur avendo un ordine anch'io, ogni tanto potrebbe anche intervenire sui certificati, perché adesso, al di là della battuta dell'ironia, ma un certificato per cui uno non può attraversare lo stretto sul ponte di Messina, lo stretto di Messina, ma può andare lavorare in un luogo più distante, l'avrà firmato un medico. Allora, cioè, non è che adesso, ogni tanto anche i medici avvalgono delle cose obiettivamente inspiegabili nel pubblico come nel privato. E mamma mia, e diciamola tutta, su Osenò va bene così, hanno tutti ragione, era un bellissimo libro di Paolo Sorrentino. Va bene, invece Roberto Pellicciari, fondatore e presidente di Test Pharma, ha deciso di non mettersi malato, se ho ben capito, nel 2010 a Perugia. Buonasera, professore. Buonasera. Ha sentito? Sì, malato oppure andare, sì, lasciare l'attività. No. Ecco, cioè, perché lei ha cosa ha creato nel 2010 a Perugia, tra l'altro? Un'azienda farmaceutica, ho capito bene? Beh, azienda è diciamo un po' eccessivo. Per ora. Diciamo una startup innovativa che è molto più modesto, anche se siamo ambiziosi. Ma diciamo no, nel 2010 insieme ad altri collaboratori. Diciamo nel 2010 ero professore ordinario di chimica farmaceutica all'Università di Perugia e insieme a due giovani collaboratori che io stimo molto e insieme a dottor Robertson, che era il vicepresidente di Siena Biotech in quel tempo, abbiamo chiamato questa startup innovativa che si chiama Test Pharma e abbiamo cominciato in quattro nel 2010. Adesso cinque anni dopo siamo 22 più altri consulenti, ma diciamo 22 giovanissimi ricercatori che abbiamo preso. Allora resti con noi perché adesso è il GR24, poi vorrei capire come sempre in questi casi chi vi ha aiutato, quante persone avete assunto. Dopo però il GR24 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, stavamo cercando di capire nella parte sempre propositiva e positiva che cosa avesse creato Roberto Pellicciari, la Test Pharma a Perugia nel 2010. Di cosa si occupa la Test Pharma, Pellicciari? Ma la Test Pharma è un incubatore di idee, diciamo, volendo usare un'espressione un po'. Ecco, diciamo che cerca nuovi target biologici. Cerca di capirne la possibile utilizzazione per terapie nuove nel campo delle malattie metaboliche e nel campo dei tumori. E diciamo, in questo si avvale di giovani che vengono da più parti d'Italia. Diciamo che Test Pharma è composta del 100% è laureato e il 60% ha il dottorato di ricerca. Quindi diciamo, e l'età media, a parte me che do l'esperienza, ma diciamo l'età è media di 33-34 anni. Ecco, sento una cosa, lei però, se ben ricordo, aveva già sviluppato una molecola in grado di curare malattie epatiche di carattere mortale che è commercializzata negli Stati Uniti dalla società... Ancora no? Diciamo che Test Pharma in realtà nasce sull'onda del successo di questa scoperta. Che l'acido... Intercept è una società che esiste, perché a me risultava Sì, no, beh, non solo esiste, ma nel 2014 è stata tra le prime 5 compagnie americane nel Nasdaq. Ecco, perché vale 8 miliardi di dollari in borsa. Quindi diciamo, ed è basata su una molecola che è l'acido beticolico. No, ma la domanda, esatto, la domanda però è un'altra, mi scusi. Lei, dopo aver lavorato, insomma, perché Cioè, è tornato a Perugia per un attaccamento, perché lì c'era un ambiente? No. Io sono, diciamo, ho sempre insegnato all'Università di Perugia, sono professore universitario che, diciamo, fino al 2011 sono stato, diciamo, a tempo pieno come professore ordinario di chimica farmaceutica all'Università di Perugia. E, diciamo, la compagnia Intercept, che ho contribuito a fondare nel 2002 a New York, in realtà ha avuto sempre un contatto stretto di collegamento con l'Università di Perugia. Quindi l'acido beticolico è stato fatto da me, io sono l'inventore, il brevetto non è mio, ma insomma è un brevetto sviluppato, creato nell'Università di Perugia, sviluppato da una compagnia americana che è Intercept Pharmaceuticals. Okay. E quindi diciamo che questo è un articolo che voi, che il... No, ma dico, io quello che volevo capire, era una domanda vera, cioè, sì, avendo avuto esperienza anche negli Stati Uniti, lei poi, avendo sempre insegnato, allora, a Perugia, ci mancherebbe, però voglio capire, ha trovato una follia, ecco. Se vuole dirla, è una follia senile, non so, li chiami come vuole. Ma perché una follia? Perché l'ambiente... Una follia perché tutti sappiamo quanto è difficile creare aziende innovative in Italia, no? Dobbiamo ripetere le difficoltà della burocrazia, no? Eccetera, eccetera. E poi le biotech, questa è una vera biotech, e le biotech in genere si creano nei posti dove ci sono altre biotech, diciamo dove ci sono altri incubatori. Ecco, diciamo che crearla a Perugia, vicino Perugia, è una sfida nella sfida, è una sfida fare una biotech in Italia, è una sfida farla in un posto decentrato come Perugia. Come Perugia. Chi le ha dato, diciamo, una mano finanziariamente? No, finanziariamente noi siamo del tutto autonomi. Diciamo che questo molto è chiaro che molto della possibilità di creare Test Pharma viene dal successo di Intercept, che io ho ritenuto doveroso. Cioè, diciamo, doveroso creare qualcosa in Italia. L'Italia è un paese molto difficile, dove, come lei potrebbe farci una trasmissione, quanto è difficile soprattutto... Ne faccio anche più di una, di solito. Innovare. Ma no, ma proprio sulla innovazione, sulla difficoltà di creare innovazione. Siamo bravissimi nella manifattura. L'innovazione è ancora più difficile in Italia. E quindi, diciamo, la sfida era dare un'opportunità, senza retorica, ai giovani, che come ci sono tantissimi bravi in Italia, di restare in Italia e di dare la loro opera, la loro qualità di ingegno da noi. Senta, quindi i soldi, perché questo è quasi uno spin-off di Intercept. No, non è assolutamente. No, non è uno spin-off. No, guai. Ma i soldi chi ve li ha dati? Sta dicendo una cosa terribile. No, perché, ma i soldi chi ve li ha dati? No, i soldi li abbiamo messi all'inizio noi. Noi abbiamo cominciato, li abbiamo messi noi. Abbiamo messo io e i miei collaboratori. Perfetto. Diciamo, però è chiaro che noi abbiamo avuto... Diciamo, molto si basa sul successo di Intercept, perché perfetto. La prima commessa è venuta da Intercept. Senta, una cosa, la qualità delle persone che lei ha trovato, cioè, la qualità dei laureati, visto che lei insegna e ha insegnato a Perugia, com'è? Cioè, dove siete andati a recuperarli i collaboratori? Perché lei ci diceva nella prima ora che da 4 siete in 25 adesso, no? Sì, di cui tutti laureati e molti dottorati. Sì, la maggior parte è il dottorato di ricerca, come poi richiedono... Ecco, dico, ma sulla qualità della preparazione? Beh, diciamo che io dovrei ripetere quello che si dice sempre. In Italia ci sono dei giovani eccellenti, come non si trovano negli altri paesi d'Europa. Cioè, il problema dell'Italia è che la qualità non è costante, non c'è un livello costante di qualità, quando uno trova un giovane bravo in Italia non c'è confronto con un giovane inglese. Farete nuove assunzioni? Come? Avete in programma nuove assunzioni? Noi diciamo certo. Con il Jobs Act abbiamo quasi raddoppiato i dipendenti a tempo indeterminato. Quindi adesso il 50% è a tempo indeterminato e pensiamo che man mano che scade il loro contratto precedente di portarli tutti a tempo indeterminato, anche perché, se mi permette, cioè, diciamo che questa è una struttura che deve creare, dove noi dobbiamo creare, è un incubatore di cervelli, diciamo, e di una, se vogliamo dire una cosa un po' grossa, elaborazione critica della conoscenza, con una competitività scientifica, una libertà scientifica, che è diversa da quella dell'università, dove, come io so per mia esperienza, c'è molto più competizione di carriera. Cioè, quello che io ho cercato di far qui è di creare un ambiente creativo, pieno di stimoli scientifici e anche di libertà. Perché quello che poi abbiamo fatto, noi abbiamo molte collaborazioni già con il Politecnico di Lausanne, con il Mount Sinai Hospital di New York, con il Politecnico delle Marche, abbiamo già vinto una borsa europea di Marie Curie, quindi siamo sede di borse Marie Curie, di dottorati di ricerca. Quindi diciamo che creare questo tipo di strutture che stimola la creatività che è difficile. No, ho capito, ma mi interessava proprio anche capire le vostre prospettive, visto che siete arrivati appunto a 3 milioni di euro di fatturato e 25 persone da 4 in cui eravate partite. In bocca al lupo a lei, ma soprattutto ai 25 dipendenti della RES, dipendenti alcuni diventeranno anche a tempo indeterminato della RES Pharma. Grazie al professor Roberto Pellicciani. Questa appunto la Tess Pharma, la borsa, devo fare voli pindarici ogni tanto, la borsa -1,27% nel finale, -1,40% a Parigi, -1,20% Francoforte, -0,90% a Londra, l'America sul Dow Jones perde lo 0,87%, tutta la borsa è stata influenzata soprattutto dall'accelerazione della crisi greca, poi è rientrata, le borse sono arrivate a perdere il 2%, sui listini e particolarmente penalizzati soprattutto i titoli bancari, Monte dei Paschi -3,30%, UbiBank -2,60%, ancora Unicredit -1,70%, ma faccio notare che era arrivato a perdere ben di più, Banco Popolare -1,70% anch'esso, Popolare Emilia Romagna -1,5%, e poi chi mi manca? Intesa San Paolo -1%. Finmeccanica invece c'è un report positivo sul titolo e di nuovo si scommette su una possibile cessione entro fine anno di Ansaldo Breda ed STS. Ansaldo STS, Finmeccanica +1,70%, Tod's +1,70% anch'essa, Ferragamo mezzo punto percentuale di rialzo. Non bene invece Luxottica, visto che parlavamo del lusso, -1,55%, migliori e peggiori, Vita, società editoriale +19%, Nertronica +5%, Best Union Company +4%, peggiori Edes -10,40%, Grandi Viaggi -9,40%, Innovatech -8,50%, però il commento vero, se vogliamo fare un commento complessivo di borsa, si chiama appunto Grecia e lo facciamo dopo le informazioni per chi è in viaggio. Focus Economia. Avrò senza dubbio un incontro a breve con la signora Lagarde. È qualcosa che faccio regolarmente, quindi non c'è nulla di straordinario nel fatto che l'incontro avvenga ora. Non credo che si possa interpretare la decisione di ieri dell'FMI come un ritiro dei negoziati da parte del fondo. Ho parlato a lungo ieri sera con il primo ministro greco e probabilmente lo farò ancora nei prossimi giorni. Per il resto, credo che una soluzione sia necessaria. Je crois qu'une solution est nécessaire. E fin qui siamo alle banalità, anche se a dirle è il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker rispondendo a una domanda sulla Grecia. Vittorio D'Arold del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. E poi anche a grande richiesta, devo dire, degli ascoltatori, e non che io fossi contrario, in collegamento l'editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles, Adriana Ceretelli. Buonasera Adriana. Buonasera. Non ti imbarazzare, gli ascoltatori ti richiedevano. Vittorio, rapidamente la cronaca di oggi, perché noi abbiamo raccontato l'accelerazione dei mercati che hanno a un certo momento preso una scoppola, poi sono ritornati sui loro passi. Cos'era successo? È successo che per la prima volta gli Sherpa dell'Eurogruppo hanno discusso della possibilità di un default della Grecia, cioè di un possibile piano B, alla luce appunto dell'uscita del Fondo Monetario Internazionale dal tavolo negoziale, così come aveva ricordato Jean-Claude Juncker. Naturalmente non è la prima volta che si parla in un documento di questi possibili scenari, ma ha fatto comunque una certa sensazione, e il fatto è che appunto i mercati hanno hanno reagito negativamente. Intanto la stessa questione vista da Atene dice che le trattative a livello tecnico tra Grecia e i creditori sono finite, cioè un rappresentante del governo Siriza ha ribadito che si andrà avanti soltanto a livello politico a questo punto, ma che Atene non accetterà tagli a stipendi e pensioni senza avere un avanzo primario più basso e una ristrutturazione del debito, che è diventato un po' la trattativa, il punto fondamentale, perché i greci dicono che se non c'è una riduzione del debito non si taglia il circolo vizioso. No, però scusami, non ho capito. Siriza sarebbe, potrebbe tagliare le pensioni se però arrivasse una trattativa sul debito, che vuol dire allungare la scadenza, bene che vada, e un maggiore e un avanzo primario non tutto da dare come pagamento degli interessi sul debito? Allora no, ufficialmente loro continuano a dire che non accettano tagli a stipendi e pensioni, ma ufficiosamente è trapelata l'ipotesi che loro potrebbero accettare questi ulteriori, diciamo, austerity, però se ci fosse un taglio, una riduzione del debito. Questo sarebbe la possibilità per Alexis Tsipras di vendere alla propria opinione pubblica una ulteriore austerità, ma in cambio di una svolta, cioè di una riduzione del debito che, lo ricordiamo, è al 177% del PIL. Però se tu tagli il debito, evidentemente renderesti più facile distribuire un po' delle risorse che oggi devi fare per ripagare una montagna di interessi e dei, appunto, del debito verso politiche sociali che riducano gli effetti, appunto, dell'austerità nei confronti della popolazione greca. Questo è un po' il... Allora, il, come l'avevo battezzato io, barometro Cerretelli, per capire come butta sulla vicenda greca. C'è un ascoltatore che dice: ma come, parlate degli sprechi, non della Grecia? Sì, lei è quello che però già scrive contro gli sprechi, quindi ha un po' della coda di paglia. Adriana, com'è il tuo barometro? Ma il mio barometro è sempre lo stesso, cioè è chiaro che l'atmosfera è peggiorata, è chiaro che l'intesa è difficile, però io continuo a insistere che non posso credere che ci tireremo la zappa sui piedi tutti in coro, perché per carità il default per la Grecia sarebbe una tragedia per la Grecia, ma lo sarebbe anche e forse soprattutto per l'Europa, perché sarebbe il principio del, come dire, della fine del processo integrativo, la fine del principio, abbiamo detto mille volte, della irreversibilità della moneta unica. Io credo che in questo caso un cattivo accordo sia meglio di un non accordo, e io ne resto profondamente convinta. Certo, per fare l'accordo bisogna essere in due, se non si è in due è evidente che non si ecco, può c'è, fare. Ecco, c'è un flash d'agenzia in cui il portavoce del governo ellenico pochi istanti fa ha detto: la Grecia e i suoi creditori non sono mai stati così vicini ad un accordo, e meno male che sono vicini, e chiuderlo, questo lo aggiungo io, e chiuderlo è solo una questione di volontà politica. Ecco, la volontà politica, però vediamo di capirci, perché per ora abbiamo sempre parlato dei dettagli tecnici, allunghi la scadenza del debito, tocchi le pensioni, non tocchi le pensioni, cosa fa dell'avanzo primario la Grecia, deve ripagare gli interessi oppure può fare anche operazioni, diciamo, per far ripartire i consumi. Tutto questo mette l'accento sull'accordo che deve essere politico, che cosa vuol dire poi? Vuol dire, secondo me, diciamo, riuscire a chiudere con degli impegni, forse parziali, che possano consentire a tutti di salvare la faccia. Alla Germania di dire ai suoi, perché non dimentichiamoci che il Bundestag deve approvare, come altri parlamenti. E rischia di andare sotto. Quindi la Merkel. La Merkel può andare davanti al Parlamento e dire sì, ok, non abbiamo fatto miracoli, non si potevano fare, d'altra parte questi sono stati eletti proprio per evitare che le cose andassero in un certo modo, però comunque staranno dentro la disciplina, i tempi più diluiti, il rinegoziato del debito è inevitabile perché tanto senza crescita il paese non potrebbe ripagare, insomma cercare di dare l'impressione che è vero che la Grecia non darà quello che avrebbe dovuto nell'ambito del programma di aiuti che gli era stato concesso, che però rimane sulla, diciamo, la retta via. E Tsipras al tempo stesso deve andare a dire sì, ok, non sono riuscito a garantire, non lo so, probabilmente le pensioni secondo me non le toccano, ma magari sul costo del lavoro, magari sul salario minimo rimandarlo, non lo so, ma insomma magari come si ipotizzava l'altro giorno a Bruxelles, fare una riforma, una sola vera, e poi fare un calendario di riforme, tanto per sbloccare gli aiuti. Però io continuo a ritenere che sarebbe un disastro collettivo, quindi io perché, non posso credere te lo chiedo, che non troveranno un accordo, una strada. Perché una Francesco strada, Giavazzi, un vero accordo, ma, sì. Giavazzi su Corriere della Sera di qualche giorno fa diceva, ma insomma ci stiamo occupando da 5 anni di un paese che rappresenta nemmeno il 2% del PIL europeo, e abbiamo da un lato l'Ucraina, la Russia, dall'altro l'ISIS che si prende mezzo Medio Oriente. E come dire, lasciamo i greci al loro destino. Tu mi sembri molto molto più preoccupata di fronte a questa ipotesi d'accademia, se io non si offende. Io trovo che queste ipotesi accademiche hanno poco a che vedere, sono come le ipotesi accademiche che dicono sì, ma tanto se la Grecia fa default esce non succede niente. Io non ci credo neanche per idea, perché io ho visto con i miei occhi quando la Francia e la Germania decisero di violare il patto di stabilità. Quella violazione è stata una delle cause che ha scatenato in Olanda l'euroscetticismo. L'Olanda, paese sempre, da sempre rigorista, non poté tollerare l'idea che il suo alleato naturale, che era la Germania, avesse potuto fare una cosa di questo genere. Quindi le conseguenze non si vedono magari nell'immediato, ma l'uscita della Grecia potrebbe aprire la strada all'uscita di altri paesi, anche perché, parliamoci chiaro, se l'euro deve stare in piedi bisogna fare maggiore integrazione. Se l'integrazione verrà fatta solo con un certo marchio, che è quello del rigore, delle riforme in un certo modo, di un modello di società di sviluppo di un certo tipo, con questo senso dell'imposizione, nessuno ci starà a rafforzare l'euro, perché al momento opportuno, quando si tratterà di cedere sovranità su il fisco, le misure sociali, le pensioni, appunto. La gente e i governi ci penseranno su 8 volte. E quindi, in una maniera diretta o indiretta, ci sarà un vulnus dentro all'euro che non sarà risolvibile. Per questo, secondo me, certo, la Grecia è il 2% del PIL, ma io dico che proprio è un paradosso, come sì, in una famiglia. Io avrei girato la cosa. Si risolve a 4 schiaffoni, no? Esatto. Perché, cioè, voglio dire, adesso il 2% del bilancio. Non vorrei essere tuo figlio, necessariamente, però dico, il paradosso vero, perché potremmo rigirare a Giovazzi questa obiezione, è che noi da 5 anni che per via del rigore, e non rigore, della rigidità tedesca, che è un'altra cosa, ci stiamo occupando di chi vale come una regione media italiana, o francese o tedesca. Ecco la grandezza della rigidità tedesca, del paraocchi alemanno, inteso come non l'ex sindaco di Roma. Grazie Adrianna Ceretelli, grazie anche a Vittorio Darold, da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.